729 Orzata. Mandorle dolci con 10 o 12 amarene, grammi 200. Acqua, grammi 600. Zucchero bianco fine, grammi 800. Acqua di fior d'arancio, 2 cucchiaiate. Sbucciate le mandorle e pestatele nel mortaio, bagnandole ogni tanto con l'acqua di fior d'arancio. Alcune saranno ridotte a pasta impalpabile. Scioglietele con un terzo della detta acqua e passatene il sugo da un canovaccio strizzandolo bene. Rimettete nel mortaio la pasta asciutta rimasta nel canovaccio. Macinatela col pestello, poi scioglietela con un altro terzo dell'acqua e passatene il sugo. Ripetete la stessa operazione per la terza volta. Mettete al fuoco tutto il liquido ottenuto e quando sarà ben caldo versate lo zucchero, rimestatelo e fatelo bollire per 20 minuti circa. Ghiaccio che sia, imbottigliatelo e conservatelo in luogo fresco. Se fate in questo modo vedrete che l'orzata non fermenta e potrete conservarla a lungo. Ma però non quanto i siroppi di frutta. Oltre a ciò, viene di tale sostanza che pochissima sciolta in un bicchiere d'acqua basta per ottenere una bibita eccellente e rinfrescante. Fatta coi semi di popone, viene anche più delicata.